I hope, partner, that you are well rested and ready for another, for a full day of practice. And today being such a gorgeous day, I hope this will support your practice. Buongiorno a tutti, spero che siate riposati e pronti per un bellissimo, incredibile giorno di pratica. Oggi sarà una giornata molto bella e quindi questo sosterrà la vostra pratica. As said, announced last night, this morning we shall deal with or look at a few extra points related to the meditation instructions with regard to sitting meditation, walking meditation, general activities, and certainly the interview process, and then some general comments. Come ho detto ieri, adesso vedremo alcune istruzioni un po' più dettagliate sulla meditazione, camminata, seduta, sulle attività quotidiane e anche il processo dei colloqui. To start with the mindfulness in sitting meditation, a point that was not mentioned yesterday was when we observe objects, observe and certainly come to know objects, we do this according to Venerable Mahasi Sayadaw's maxim of starting with the rising and falling movement of the abdomen. We label, we observe and come to know the nature of whatever predominant object arises in the body or in the mind. Allora, una cosa che forse non è stata menzionata ieri è che appunto quando seguiamo il salire e scendere dell'addome, noi lo iniziamo a fare sempre etichettandolo e osservando la sua vera natura, dopodiché nella nostra osservazione si osserva sempre l'oggetto che è più predominante in quel momento e lo si nota. And to elaborate on this just a bit more, so the primary object in the sitting meditation is the rising falling movement of the abdomen. So at the beginning of a sitting session we start with that and then we take it from there. If sooner or later some more predominant object arises, it draws our attention, we then let go of the rise and fall and focus our attention on that next, on that most new and predominant object. Quindi questo significa che quando ci sediamo nella seduta iniziamo a seguire il salire e scendere dell'addome, poi se a un certo punto c'è un altro oggetto che diventa predominante e quindi porta via la nostra attenzione dall'addome, allora questo diventerà il nostro nuovo oggetto e osserveremo quello. The Venerable Sayadaw Pandita Biwans of Burma, who was a long standing disciple of the Venerable Mahasi Sayadaw and actually his successor, recommended that certainly in observing objects we follow a certain series of points, namely, first of all, to pay attention to the occurrence of the object, so to know which object is occurring. That's one part. The second part consists in labeling and observing the most predominant object. So we label it, we find, we try to make a mental note, a silent, gentle note in the mind. And then as the third point, there is the knowing part. So what do we come to know about the nature of the object? What are the qualities, the most predominant sensations that are sticking out? Allora, il venerabile Sayadaw Upandita, che fu un discepolo e anche successore di Mahasi Sayadaw, ci dà degli ulteriori punti da seguire per l'osservazione. Allora, quando osserviamo un oggetto, prima di tutto ne osserviamo riguardo alla sua occorrenza, nel senso ci rendiamo conto di quello che sta avvenendo in quel momento. Dopodiché lo etichettiamo. E questa etichetta deve essere fatta in modo morbido e silenzioso. E dopodiché c'è la parte la terza parte in cui osserviamo meglio la natura dell'oggetto per conoscerlo in modo profondo. And so these three aspects of occurrence, of labeling plus observation, and certainly the knowing, those aspects keep in mind when you observe this or that predominant object. And just for yourself, try to figure out, okay, which object is currently occurring. Then, having done that, then you label, you try to find a proper label for the object that is occurring, and then you carefully observe the object from its very beginning until the very end, and you try to know its qualities. Quindi questi tre aspetti di quello che sta avvenendo, poi c'è l'etichettare, cioè riconoscere e l'osservare, e poi il approfondire la comprensione, la conoscenza, lo facciamo con tutti gli oggetti che diventano predominanti. Non mi ricordo più. Well, yeah, that's no. Quindi quando c'è questo oggetto che diventa predominante in quel momento, lo cerchiamo di osservare proprio dall'inizio alla fine per conoscere bene la natura di questo processo. And these three aspects of the occurrence of an object, the labeling and observation of it, and the knowing, these three aspects will also be helpful in presenting your experiences during the interviews. E questi tre aspetti, appunto, del capire che cosa sta succedendo, etichettare e osservare e conoscere, sono anche utili per poi riportare la nostra esperienza al colloquio. And more about the interviews later on. Still one more point. In terms of the occurrence of an object, there's nothing much that you have to do there. An object will arise or occur naturally. However, the labeling of an object, the observation of it, the knowing of it, will require activity from your part. Allora, il primo punto di questi tre, cioè riconoscere quello che sta avvenendo, non richiede un particolare sforzo, perché vuol dire semplicemente riconoscere quello che avviene in modo spontaneo, noi non dobbiamo far niente. Mentre l'etichettare e osservare e poi il processo del conoscere in modo più profondo richiedono invece un certo impegno da parte nostra. A mindful observation of pains and other predominant physical sensations was mentioned last night. In this regard, to add a little bit, as meditators, especially as new meditators, we tend to dislike disagreeable objects, and we tend to like agreeable objects. However, from a Vipassana point of view, whether an object is agreeable or disagreeable to us doesn't matter. What really matters is that we observe objects and come to know objects that are predominant. And so even if it's a pain, we just accept it. We try to observe it without resistance, without trying to push it away. Allora, ieri ho menzionato già qualcosa sul dolore. Diciamo che, soprattutto per i meditanti principianti, ma anche in generale, c'è questa tendenza a volere rifiutare gli oggetti che sono sgradevoli e invece cercare di attaccarsi agli oggetti che sono piacevoli. Però da un punto di vista della vipassana, e se un oggetto è piacevole o spiacevole, questo non è assolutamente importante. La cosa importante è conoscerli, conoscere l'oggetto predominante in quel momento. And that resistance towards unpleasant physical formations occurs also with regard to mental formations, that we resist this or that unpleasant, unwholesome mental state, rather than simply accepting it for what it is, to label it, observe it, and to know its nature. E questa resistenza nell'accettare degli oggetti spiacevoli può avvenire anche con degli oggetti mentali, come degli stati mentali sgradevoli. In questo caso, magari invece di si crea questa resistenza e quindi noi non riconosciamo quello che succede, non lo etichettiamo, non lo osserviamo e non riusciamo a conoscerlo. And so in this case, the resistance itself can be taken as an object of observation, and it should be labeled, it should be observed properly, and its nature should be known. In questo caso si può prendere come oggetto questa resistenza proprio all'osservazione, quindi possiamo riconoscerla, possiamo etichettarla e possiamo cercare di osservarla, riconoscerla. Wandering mind was mentioned yesterday briefly. Allow me to expand on this. The mind has a tendency to easily get lost in thinking. And the thinking can be related to events in the past, so this then happens in the form of memories, or the thinking it might be with regard to objects certain in the future, so things that have not yet happened, and certainly so we label this as planning or projecting something into the future, etc. Riguardo invece alla mente che divaga, possiamo dire che la mente ha la tendenza a divagare nei pensieri, questi possono avvenire riguardo a dei pensieri di qualcosa che appartiene al passato, che quindi si manifesta sotto forma di memoria, oppure riguardo a qualcosa che pensiamo possa accadere nel futuro, che però non è ancora accaduto, quindi, e queste possiamo etichettarlo con pianificare, progettare. And so ideally we want to keep the mind as much as possible in the present moment. E idealmente quello che vogliamo fare è tenere la mente il più possibile nel momento presente. And so when the mind goes off in the future, catch it, know it right away, and label it, observe it, know it, and then come back to your primary object. Quindi appena la mente scappa via nel futuro, noi la afferriamo subito, la etichettiamo quello che sta succedendo e la riportiamo sul nostro oggetto del salire e scendere. And so the same thing when the mind goes off into the past, then to immediately recognize this, to label it, observe it, know its nature, and certainly to come back to the present moment. La stessa cosa quando la mente divaga nel passato, immediatamente noi la riconosciamo, osserviamo quello che sta succedendo, lo etichettiamo e torniamo al momento presente. And be careful with certain regard to the thinking. We have a tendency to identify with our thoughts, and so they become my thinking, my wandering mind, my reflections, etc. So be mindful of that, and try to disidentify from those thoughts. A thought in the end is just another object of observation, that's all, it comes, it goes. Prestiamo attenzione ai pensieri perché c'è una forte tendenza ad identificarci nei nostri pensieri, quindi diventano subito il mio pensiero, la mia riflessione, eccetera, e invece il pensiero dobbiamo vederlo semplicemente come un altro oggetto di meditazione che sorge e svanisce. And the thinking that we notice at first, at the outset of a retreat, is actually very little. And over time, as our mindfulness improves, we will be seeing more and more subtle forms of thinking that at first are not obvious. E riguardo al pensiero, quando non siamo in ritiro non ci rendiamo conto nemmeno della quantità presente, mentre più la nostra consapevolezza diventa forte, più saremo in grado di riconoscere delle forme sempre più sottili di pensiero. And even though the environment certainly here in Bien-Die Chileji, at least today, is very quiet, yet the mind may still be very noisy with thinking, busy with thinking. E nonostante l'ambiente qui a Pian dei Ciliegi sia molto silenzioso, vedremo che nella mente i nostri pensieri possono essere davvero molto rumorosi. And with the thinking, also to keep in mind that we don't become a victim of our own thoughts. So the mind suddenly getting obsessed about this or that certain issue, topic, and totally carried away by it, and it becomes a reality of its own, and this is not necessary. E riguardo il pensiero, ancora stiamo anche attenti a non diventare delle vittime dei nostri stessi pensieri, nel senso che può capitare che la mente inizi a entrare in questi cicli di pensieri continui da cui non riusciamo a liberarci e si crea un mondo a sé stante, quindi cerchiamo di non farci risucchiare in questo e rimanerne fuori. No. Mindfulness is one of the most important qualities that contribute to the arising of intuitive wisdom, and what also matters a lot is the continuity of it. And the continuity of mindfulness is not just an occasional continuity of mindfulness. Let's say continuity of mindfulness for a minute or two, and then the mind goes off and takes a vacation, and then after a while it certainly remembers, oh, I ought to be mindful, and so on. But rather, ideally, our mindfulness should be, one moment of mindfulness should be connected with the next moment of mindfulness, the next moment of mindfulness, and so on, in a really continuous manner, uninterrupted manner. E allora la consapevolezza è un fattore importante che poi farà sorgere la saggezza intuitiva, dobbiamo sviluppare una continuità della consapevolezza. Però quando si parla di continuità della consapevolezza non si sta parlando di una continuità occasionale, nel senso che magari siamo consapevoli per un paio di minuti, poi ci rilassiamo, ci sono delle interruzioni, eccetera. La continuità significa che cerchiamo proprio di mantenere questa presenza mentale da un momento all'altro e continuamente così, un istante dopo l'altro. No, one way to check whether the continuity of mindfulness is certainly really present or not is certainly by staying with the rising and falling movement of the abdomen as long as possible, and to check very carefully whether this is easy to do or if the mind easily gets distracted by thinking, and with that the mindfulness is gone. Un modo per renderci conto se questa consapevolezza sta diventando continua oppure no è proprio quella di seguire in modo continuo e salire e scendere dell'addome. E in questo modo riusciamo a renderci conto se possiamo seguire questo movimento in modo semplice e continuo oppure se ci sono tante interruzioni, quindi se la mente divaga spesso nei pensieri o in altri oggetti. No. Especially for our new retreatants, certainly here, when you hear that the mindfulness is supposed to be really continuous, and you then see that this is actually not happening in your practice or only occasionally happening, well, then please do not despair. And over time, we get more and more skilled, and certainly the ability to ensure or to sustain continuity of mindfulness, that ability will gradually grow. So it's a job in process. Allora, per le persone che sono nuove, soprattutto, noi qua adesso stiamo parlando di continuità della consapevolezza, però vi renderete presto conto che questo non sarà possibile nella vostra pratica e che, anzi, la consapevolezza ci sarà soltanto magari nei momenti, in modo occasionale. E questo qua, questa cosa è del tutto normale, quindi non preoccupatevi perché è un work in progress, cioè nel senso che comunque man mano che diventerete più abili anche questa consapevolezza diventerà più continua. So be patient with yourselves. Quindi siate pazienti con voi stessi. Now let me see what else. When you recognize that some absent-mindedness is there, then try to immediately re-establish the mindfulness. Se vi rendete conto che c'è stato un momento di assenza mentale, cioè non siete stati consapevoli per un momento, quando ve ne accorgete, allora ristabilite la consapevolezza. No. One point that was not mentioned yesterday with regard to the walking meditation is the path that we need for a mindful walking meditation doesn't necessarily need to be all that long. So it may be a distance of 5 meters that should be enough, or maybe 10 meters, but too much more. Una cosa che non ho menzionato ieri, che questo percorso che scegliamo per fare la meditazione camminata non deve essere troppo lungo, quindi diciamo che può andare bene una lunghezza dai 5 ai 10 metri. And so choose a path where you won't get disturbed, and then mindfully, slowly and mindfully walk up and down or along that path. Scegliete quindi un percorso per la camminata in cui potete stare tranquilli, non essere troppo disturbati, e poi lentamente camminate avanti e indietro per questo sentiero. And as mentioned already last night, you do want to restrain the senses as much as possible. Now that's easy to say, but it's difficult to do. So when one is doing the walking meditation, for instance, outside, there will be all sorts of impressions, such as the sun shining onto the face. One notices the warmth there. One might notice the cold of the air. One might notice some sounds at a distance, and the like. So those will interfere with the actual observation of the sensations occurring during the walking meditation. Allora, abbiamo anche parlato del contenimento dei sensi ieri, che è una cosa più facile da dirsi che a farsi. Vedrete quando farete la camminata all'esterno che ci sono molte impressioni sensoriali che arrivano alla nostra mente, per esempio c'è il sole che può battere sulla pelle del nostro viso, magari sentiamo della brezza, del vento, vediamo delle cose, i suoni degli uccelli. E quindi cerchiamo di, l'ha detto, quindi cerchiamo di focalizzarci completamente sulle sensazioni dei piedi. And that too at first may be a bit difficult, but gradually the mind becomes more and more concentrated, and then it's certainly easier to know the nature of what's happening. E in modo graduale poi la mente diventerà sempre più consapevole, e quindi sarà più facile riuscire a comprendere proprio la natura di quello che sta avvenendo. Also during the walking meditation we want to stand in or walk in an upright posture. E durante la nostra meditazione camminata cerchiamo di camminare con una postura dritta, corretta. Yeah. Now, since there are a number of new meditators among us, allow me to give a brief demonstration of the three forms of walking meditation. So dato che ci sono dei nuovi meditanti, do una dimostrazione della meditazione camminata divisa in queste tre fasi. The more experienced yogis, of course, know this already. I meditanti che hanno più esperienza conoscono già queste cose. Like this, we start off upright posture. Please keep your hands either in front of the body or behind, certainly the back. And certainly do not do walking meditation like this. Quindi per favore vi mettete dritti con la vostra postura, tenete le mani appunto in grembo davanti oppure tenute dietro, cioè la cosa importante è che le mani non ciondilano di fianco. Gli occhi potete posizionarli che guardano tipo una distanza da 3 o 4 metri davanti a voi, quindi non piegatevi in avanti per guardarvi i piedi. Allora, quando facciamo la prima fase della camminata, etichettiamo il passo, quindi passo destro, passo sinistro, e percepiamo, in questo caso osserviamo le sensazioni più predominanti che ci sono in tutta la gamba e anche nel piede. Quando arriviamo alla fine del nostro percorso, ci fermiamo, stiamo in piedi un attimo, quindi possiamo etichettare stare, fermo, e osserviamo le sensazioni che ci sono nel piede. Quindi a un certo punto, quando siamo lì fermi in piedi, in modo spontaneo sorgerà magari un'intenzione di girarci per poi continuare a fare la nostra camminata. Quindi prima di muoverci notiamo ed etichettiamo questa intenzione con intenzione di girarsi. Poi quando l'abbiamo ben notata, vediamo che questa verrà seguita da vari movimenti fisici, quindi mentre ci voltiamo etichettiamo anche girare, voltare, e finché non siamo voltati dalla parte opposta. Poi per la seconda fase della nostra camminata dividiamo ogni passo in due fasi diverse, il processo del sollevare e dell'abbassare. Se un'intenzione, per esempio, di sollevare il piede diventa evidente in modo spontaneo, allora possiamo notarla ed etichettarla. Se invece questa nessuna intenzione diventa evidente da sola, allora non è necessario andare a cercarla. During the lifting process, as mentioned last time, pay closest attention to how the heel and the major of the entire foot comes off the ground. There's certain sensations that go along with it, and certain for us to carefully observe and know. Quindi in questo caso, in questo passo in due fasi, appunto possiamo notare se la vediamo l'intenzione, poi sollevare, abbassare. E, no, no, aspetta, wait, I forgot something. Ah sì, è molto importante, come ho detto ieri, quando alziamo il tallone dietro e tutto il piede si solleva, di prestare particolare attenzione a tutte le sensazioni che avvengono lì. So what is actually happening there? Then as you slowly and placing the foot on the ground, what do you notice? La stessa cosa quando stiamo appoggiando molto lentamente il piede sul terreno, vediamo tutte le sensazioni che possiamo notare, quindi possiamo sentire magari delle pressioni, del calore, del freddo, della tensione, del soffice, morbido, durezza, vediamo tutto quello che può avvenire. E la terza fase della nostra camminata è fondamentalmente simile alla seconda, soltanto che siamo consapevoli anche del momento in cui il piede si sta muovendo nell'aria, quindi c'è il sollevare, il muovere in avanti nell'aria e l'appoggiare. Se sorge un'intenzione prima di questo movimento in avanti del piede e in modo naturale la possiamo vedere, allora la notiamo. Qualcosa del genere. The next part to address Sedna this morning is Sedna, the interview process. Poi il secondo punto che trattiamo adesso è il processo del colloquio. Now, the interviews in the Mahasi tradition of mindfulness meditation play a really important role. Il colloquio nella tradizione di Mahasi gioca un ruolo veramente importante. And it is by or through the meditators relating their experiences to a teacher, the teacher carefully listening to what is Sedna unfolding in a meditator's practice, that a teacher then can give appropriate advice, guidance, encouragement, and so on. Quello che succede nei colloqui è che il meditante descrive in modo accurato la sua esperienza, l'insegnante ascolta attentamente l'esperienza del meditante e vede come la sua pratica si sta sviluppando, dopodiché dà dei suggerimenti o dei riscontri sulla pratica. The regular interviews basically have a galvanizing effect on a retreatant's practice. E di solito avere dei colloqui quasi quotidiani, ripetuti, dà un effetto galvanizzante alla pratica dei meditanti. If there were no interviews ahead of you, you would just cruise along and not being 100% mindful. But if you know that an interview is coming up next morning, then you may want to pay closer attention to what is really happening at the practice. Se non ci fosse alcun colloquio, magari potremmo pigramente andare avanti senza impegnarci davvero, invece se sappiamo che magari la mattina dopo abbiamo un colloquio, allora ci verrà da impegnarci nella nostra osservazione. And with the interviews, basically, try to see them in a positive way, namely, that these are occasions when you receive instructions, guidance from a teacher, and these instructions are meant to help you in your practice. E cercate di vedere in modo positivo il colloquio, nel senso che è un momento in cui voi potete ricevere delle istruzioni e una guida pratica dall'insegnante, quindi è qualcosa che è utile per la vostra pratica. And so please, during the interviews, try to see a teacher as a friend, a person who is ever ready to support you in your practice, and there's no need to be afraid of a meditation teacher. E per favore cercate di vedere l'insegnante di meditazione come un amico, come una persona che veramente vuole aiutarvi nella vostra pratica, quindi non c'è bisogno di essere spaventati dall'insegnante. Now, the meditation or the interview process actually begins already during a formal sitting session or formal walking session. Allora, i colloqui si terranno anche durante l'orario della meditazione seduta o camminata. Yeah. And so, when you observe carefully what's unfolding, and you come to know what's happening, then you will have points to report, to present during the interview. After a formal sitting session or walking session, feel free to write down your experiences, but not during. Ok, no, scusate, non ho capito bene la parte prima. Il colloquio, diceva che il colloquio inizia già quando stiamo praticando, nel senso che durante la seduta formale della camminata, della meditazione camminata, noi osserviamo molto bene questi processi e poi cerchiamo anche di notarli per scriverli alla fine, cioè alla fine della seduta o della camminata possiamo scrivere qualche nota per ricordarci, però non durante. Cioè non interrompiamo the other yogis, yes, right. No, so do it after a formal sitting session in order not to disrupt or disturb the fellow yogis. Quindi dopo la meditazione seduta, quando è finita, possiamo scrivere qualcosa così non interrompiamo e non disturbiamo neanche gli altri. No. When you give your report during an interview, during a colloquio, then please try to adhere to the standards, scientific standards of accuracy and brevity and precision. Quando riportate la vostra esperienza a un colloquio, cercate di mantenere questi standard di comunicazione, diciamo che siano scientifici, in modo riportare l'esperienza in modo scientifico, accurato e breve. Breve and precisely. E preciso. Yes. And rather than repeating the same experiences over and over again, just choose the clears and present that. Quindi piuttosto che raccontare magari la stessa esperienza varie volte, scegliete la più chiara che avete avuto e descrivete quella. And when you give your report, please start with a description of the rising falling movement of the abdomen from your sitting session. Quando iniziate il colloquio, partite dalla descrizione di una meditazione seduta, del movimento del salire e scendere dell'addome, come l'avete visto. And giving a description of the rising and falling as the first thing in a report, will also help you to better understand where the practice starts. So what's the baseline? What's the baseline in your practice? And then how do things unfold over time? E descrivere, l'osservare, salire e scendere dell'addome è utile anche per voi per riuscire a capire proprio come si sta sviluppando la vostra pratica e perché avete in questo senso sempre un punto di partenza presente da cui poi riuscite a vedere come si sviluppa. And so for you to understand right away, you know, that the rising and falling movement of the abdomen as the primary object in the course of one single sitting session may undergo many changes. It may manifest in many different forms, and for you to see this clearly. E è giusto anche sapere che il salire e scendere dell'addome come oggetto primario, anche soltanto in una seduta, può cambiare moltissime volte, quindi si presenterà in modi molto, molto diversi. Then, having described the rise and fall, you move on to describe the next most prominent object that occurred. So if it's some physical pain, you take that as an object, and then you present it. Okay, such and such a pain occurred. Then, having occurred, you then say how you labeled it as pain or as maybe burning pain, etc. And then, while observing it, what happened to, or first of all, what kind of pain was it, and what happened to the pain over time? Poi, dopo aver descritto salire e scendere dell'addome, potete parlare di un altro oggetto che è stato molto predominante, per esempio se c'è stato il dolore, potete dire che avete notato che c'era questo dolore che stava avvenendo, e poi notate il tipo di dolore, quindi potete descriverlo, che tipo di dolore era, e anche dopo in che luogo era, e cosa è successo al dolore, quindi se è cambiato, si è spostato, se è rimasto e se alla fine se è scomparso. Should a pain disappear by itself, that's good, then bring your attention back to the rising and falling movement of the abdomen. If a pain, however, lasts for a longer period of time, it keeps changing, then stay with it. Allora, se il dolore scompare da solo, allora tornate al salire e scendere dell'addome, invece se il dolore rimane per più tempo, allora potete osservarlo in tutti i suoi piccoli cambiamenti e restare con lui per un po'. And then try not to change your sitting posture right away. So in other words, try to be patient around the pain and observe it with a fair amount of determination, so you don't easily give into it. Quindi cercate di non cambiare subito posizione quando c'è un dolore, ma cercate invece di guardarlo in modo paziente e di immergervi un pochino dentro, con una certa determinazione di immergervi un po' nell'osservazione del dolore. And if a pain doesn't change at all, then let go of it and go back to your rise and fall, and certainly report that during the interview. Se il dolore non cambia, non vedete cambiamenti nel dolore, allora tornate a salire e scendere dell'addome e poi questa cosa potete portarla nella descrizione al colloquio. And so then you report on your rise and fall, and if then sooner or later thinking arose in the mind, then the thinking gets described, needs to be described. So you say thinking occurred, it was labeled as such and such kind of thinking, and then when carefully observing it, I came to know this or that about the thinking. Was it maybe it was obsessive thinking, maybe it was random thinking, etc. Poi può succedere anche che con il pensiero, quindi se la mente divaga nel pensiero, anche questo deve essere osservato e notato, quindi vediamo che sta succedendo, poi al colloquio riportiamo come lo abbiamo etichettato, quindi che tipo di pensiero era, come l'abbiamo nominato, poi come l'abbiamo osservato e che cosa siamo riusciti a conoscere di quell'oggetto. And when the thinking subsides, then your attention goes back to the rise and fall. If some joy arises in the mind, then the joy becomes the next object to be described during the interview. So you say, joy occurred, you label it as joy, and then you carefully observed it, and you came to know this or that about the joy. Poi quando il pensiero scompare ritorniamo al salire e scendere dell'addome, poi magari potrebbe comparire della gioia, allora al colloquio in quel caso possiamo descrivere che è avvenuta della gioia, noi l'abbiamo notata ed etichettata come gioia e poi abbiamo osservato e spieghiamo, descriviamo che cosa abbiamo osservato nella gioia, cosa è successo. Yes. Let me see what else. And then having given a report on your best sitting session, and best sitting session here means a session that mostly represents your practice, and this could include difficult experiences. So if you've had a day of lots of pains and aches and lots of difficult mental states, well, that's what you need to report. E quando dico che dovete descrivere la vostra seduta migliore, io con seduta migliore intendo la seduta che rappresenta al meglio la vostra pratica, quindi se in tutta una giornata avete avuto molte difficoltà, avete incontrato tanti oggetti difficili, magari stati mentali difficili, questo è esattamente quello che dovete descrivere e riportare al colloquio. Sì. The next part to report during the interview would be the walking meditation, and after a few days you will naturally be doing the three-step walking meditation, and so then report on that. Poi dopo di questo si descrive la meditazione camminata, vedrete che dopo qualche giorno in modo spontaneo riuscirete a fare anche la meditazione camminata divisa nelle tre fasi del passo e a quel punto descrivete questo. So at first, to clarify, at first we divide 1 hour of walking meditation into these three phases or three kinds of walking meditation. But then once we notice that the first type of walking meditation is too fast and we don't see that many details, then you can drop that. And then you just do the second and the third type of walking meditation. If after a while you notice that even the second type of walking meditation is too fast, you're not seeing enough details, drop that and focus primarily on the third type of walking meditation. So it's a natural development that takes place. Quindi per spiegare un po' meglio, noi adesso quando iniziamo a fare la camminata dividiamo appunto la camminata in questi tre periodi di tempo di una ventina di minuti a testa e quello che succede, quindi partendo da seguire i passi e poi dividere in varie fasi, quello che succede poi in modo spontaneo che ci accorgiamo che la prima fase dopo un po' è troppo veloce, quindi non riusciamo a vedere i dettagli dell'esperienza, quindi automaticamente inizieremo a fare soltanto la camminata divisa in due fasi e in tre, poi anche quella divisa in due fasi magari ci sembrerà di non riuscire a vedere i dettagli, allora faremo soltanto la camminata divisa in tre fasi, il passo diviso in tre fasi. Yeah. Right, and if then some time remains, then you could also report on some predominant experience from the general activities. Poi se rimane del tempo si può anche raccontare qualche esperienza predominante che è avvenuta nelle attività quotidiane. Now, since that we have quite a number of Satna retreatants participating in this Satna retreat, it's important that you respect the 10-minute limit for the interviews. Dato che ci sono molti meditanti in questo ritiro, è importante rispettare il tempo di 10 minuti a testa per meditante durante il colloquio. And on occasion there are meditators who just in a notorious manner keep going over the 10-minute limit, even if it's 15 minutes they go beyond 15. Perché succede a volte che i meditanti comunque continuino a parlare senza pensarci anche oltre il loro tempo di 10 minuti e se anche il tempo fosse di 15 anche dopo i 15. And do leave some time for a teacher to give some instructions. E non lasciano neanche il tempo all'insegnante di dare qualche istruzione. Okay. So now the next topic is our next aspect that we need to highlight our initial difficulties that might come up during the first few days of a retreat, and those difficulties consist of initial sloth and torpor, so being totally exhausted. This may be related to having worked too much and so on. Meditators at times have a hard time with a wandering mind, there's too much of that, or pains and aches are an issue, or difficult, or a certain sense of discouragement might occur for some. And then having to get up early in the morning at 5 o'clock, whereas in Burma yogis get up at 3 o'clock in the morning, so consider yourself quite fortunate. Allora, un altro punto da sottolineare è che i primi giorni ci saranno delle difficoltà da incontrare, soprattutto si incontra molto sonnolenza e torpore, ci sentiamo esausti magari perché arriviamo da un periodo di duro lavoro, oppure incontriamo tantissimi pensieri, oppure c'è un senso magari di scoraggiamento che può esserci verso la pratica, o non ci piace magari dover alzarci presto. Però allora vi ricordo che in Birmania ci si alza alle 3 di solito, quindi siamo molto fortunati qui. Now, the schedule, having to spend an entire day sitting, walking, and being mindful all day long, this is actually not that easy to do. It's strenuous. It's really tiring. And so just know that that is the way it is at first. However, over time, as our practice deepens, things turn around and then it will become easier. E anche il seguire questo programma giornaliero che abbiamo, che consiste nella seduta, nella camminata, all'inizio può essere faticoso, può sembrare molto difficile, però è giusto che sappiate che poi quando le cose iniziano a svilupparsi, invece, questa cosa cambia e diventa facile seguire questo programma. Now, a few precautions. The Buddha's teachings are known as certain teachings of extremes or of the middle path. What would you say? Allora, gli insegnamenti del Buddha, secondo voi, sono un insegnamento che va all'estremo, agli estremi, oppure segue una via di mezzo? Oh. So it's the middle path. È una via di mezzo. And that also applies certain to the meditation practice, so we want to make sure that our practice remains balanced. Questo si applica anche alla nostra pratica di meditazione, quindi noi vogliamo che la nostra pratica rimanga in equilibrio. Now, a few things to pay attention to are as follows. We do want to ensure sufficient intake of liquids. This is maybe not an issue today, but in a few days it's supposed to get warmer, and then we want to remain rehydrated. Quindi una cosa importante da tenere a mente, per esempio, se dovesse cambiare il tempo e diventare più caldo, di assumere una giusta quantità di liquidi per rimanere idratati. Now, on occasion there are meditators who decide to go on a retreat and then on top of that decide that they need to fast. Or they eat less and less and less and less. So please, that's not the way to go. Try to eat a moderate amount of food, neither too much nor too little. Poi succede che alcuni meditanti che vadano in ritiro inizino a digiunare, oppure che man mano il ritiro va avanti iniziano a mangiare sempre di meno. Però questa cosa non va bene, nel senso non, ovviamente non mangiate troppo, però è giusto prendere una giusta quantità di cibo che ci serve. No. On occasion it also happens that meditators get constipated. If it's just for a day or so, then never mind. But if one is constipated over a period of 3 or more days, then please do something about it. Poi un'altra cosa che può succedere ai meditanti è di soffrire di costipazione, quindi se la cosa succede per un giorno non è un problema, se dura 3 o 4 giorni cercate un modo per risolverlo. And so try to deal with it by possibly taking laxatives or by doing certain exercises, drinking water, and then try to relieve the constipation that way. Quindi per farlo si possono prendere o anche richiedere dei, come si chiamano, lassativi, oppure bere molta acqua, fare alcuni esercizi, chiedere delle prugne secche in cucina. Yeah, right, those. Cosa del genere. I thought about it, indeed. And then, sleep. Sufficient amount of sleep is important. We do not want to deprive ourselves in a willful manner of sleep. Poi è comunque importante dormire una quantità giusta di tempo, quindi non vogliamo noi non vogliamo deprivarci dal sonno. Now, in the course of an intensive retreat, especially longer retreat, the need for sleep may change. And so there will be, at first we might need a bit more sleep, and then later on when the practice is going quite well, we might be quite surprised to find that sleeping just 4 hours is enough. Durante un periodo di un ritiro intensivo la quantità di sonno che ci serve può cambiare, quindi all'inizio avremo magari bisogno di un po' più di tempo dedicato al sonno, ma poi dopo potremo sorprenderci che quando la pratica inizia ad andare bene possiamo aver bisogno di dormire sempre meno, magari anche 4 ore a notte. And then after a while this may change again, and we might find ourselves going to bed early and waking up much later than usual. So what I'm trying to say is that the need for sleep in the course of an intensive retreat will fluctuate. E questo può comunque cambiare poi ancora, magari dopo ci ritroveremo di nuovo ad aver bisogno di andare a letto prima e svegliarci dopo, quindi quello che voglio dire è che durante il corso di un ritiro il tempo che ci serve per il sonno può cambiare. Good. Then what's next? Then on occasion there are retreatants who try to push through pains and deliberately stay with the pain for an extended period of time, even though the body can't take it anymore. Poi un'altra cosa che succede ad alcuni meditanti è che cercano di sforzarsi troppo a stare con il dolore, quindi restano lì a tutti i costi con il dolore per dei lunghissimi periodi di tempo e il corpo non riesce più a reggerlo. Now, what or in terms of pains, do feel or do take the freedom to change your posture if a pain becomes excruciating, unbearable. But do so, as mentioned yesterday already, in a mindful and slow manner. Quindi voi siete liberi di poter cambiare posizione quando un dolore diventa troppo forte, diventa intollerabile, però come ho detto ieri lo fate dopo aver notato l'intenzione e poi muovendosi in modo consapevole. Now, in terms of the thinking, on occasion there are new retreatants who are who've heard about Satna meditation in a general manner, and they assume that Satna during Vipassana meditation, thinking should not occur at all. And that is a wrong assumption. Allora, questo soprattutto per i principianti che magari hanno sentito qualcosa di meditazione ma non sanno molto e magari credono che nella meditazione i pensieri non debbano mai avvenire, questo qua è sbagliato. Cioè, è normale che ci siano. Yes, and from the Vipassana point of view, the thinking is just another object of observation. So you label it, you observe it, you know its nature, you try not to get carried away by it. Dal punto di vista della Vipassana, il pensiero è semplicemente un altro oggetto di osservazione, quindi ci rendiamo conto che c'è, lo etichettiamo, lo osserviamo, lo conosciamo e non ci facciamo portare via dal pensiero. Now, let me see. As mentioned already yesterday, if you are new and you find it difficult to sit for one full hour, then please take the freedom to change quietly, mindfully, to change your posture and then try to sit until the end of the hour. E quindi se siete nuovi, avete difficoltà a sedere per un'ora intera, prendetevi pure la libertà di cambiare posizione, cercate di farlo in modo silenzioso e lento e rimanete comunque qui fino alla fine dell'ora. And this is mostly because it's a larger group of meditators, and if a number of yogis get up in the midst of a sitting session, then it will disrupt quite a number of yogis. Questo perché siamo un gruppo molto numeroso, quindi se in molti iniziano ad alzarsi e uscire, si disturba la pratica di tutti. On occasion, there are also retreatants who exercise a lot of pressure on themselves unnecessarily, and this may happen by setting high standards, by determining what they should be experiencing, and setting deadlines by such and such a date. I need to have realized, the peace of Nibbana. This is not the way it works in Vipassana meditation. Allora, poi un'altra cosa, alcuni meditanti si mettono sotto pressione da soli perché hanno degli standard troppo alti oppure decidono che devono avere determinate esperienze o si danno anche proprio delle scadenze, per esempio entro tot giorni devo realizzare la pace del Nibbana, quindi state attenti a questo. And sometimes retreatants also find themselves in competition with certain fellow meditators, let's say seeing some fellow meditators sitting there for 2 hours non-stop, one feels one should also be able to do that and can't do it, and then this creates a lot of unnecessary pressure. Poi un'altra fonte di pressione che non è proprio necessaria è entrare in competizione con gli altri meditanti, quindi magari vediamo qualcuno che si siede per 2 ore di fila, allora noi pensiamo, io non sto facendo abbastanza, anch'io devo sedermi così a lungo, eccetera, quindi queste cose non sono necessarie. Yeah, so please, this is an important point. When we practice Vipassana meditation, we do not do this to compete with others. Each and everyone does his or her practice, and that's it. Quindi questo è davvero importante, noi non pratichiamo la Vipassana come una competizione con gli altri, ognuno ha la propria pratica e questo è quanto. And if this competing mind arises, then take this itself as an object and label it accordingly, as competing, and observe it, know its nature, and let go of it, and not just once, but many times. Se sorge questa mente competitiva, dobbiamo notarla, etichettarla anche più e più volte finché non la vediamo proprio svanire. Another point to stay away from are the evaluations, self-evaluations. How am I doing? How is my practice going? Is it going well? Is it not going well? Or it should be better and so on. So any form of self-evaluating, take that itself as an object, label it, observe it, know it and let go of it. Poi un'altra cosa da cui stare alla larga sono delle autovalutazioni che possiamo dare a noi stessi o alla nostra pratica, quindi ma sto meditando bene, sto migliorando, sto peggiorando. Se avvengono queste cose, questi pensieri, li notiamo, li osserviamo, li etichettiamo e li lasciamo andare. And let a teacher do the evaluation part, you just focus on your own practice. Voi dovete soltanto concentrarvi sulla vostra pratica, lasciate che sia l'insegnante a fare le valutazioni. And especially new meditators, when their practice goes well and beautiful mental states arise, there are no pains in the body, then they feel, oh, this is good practice. But at other times, some difficulties will be there or might be there, and certainly even those experiences may consist or may be signs of good practice. E specialmente per i meditanti nuovi, alcune volte quando nella loro meditazione magari ci sono pochi dolori, ci sono degli stati mentali piacevoli, allora tendono a pensare che la pratica sta andando molto bene, quando invece ci sono delle difficoltà o delle cose più sgradevoli pensano che va male, anche se queste potrebbero essere in realtà dei segni di una buona pratica. And then in terms of fitness, certain mental states, the states of intense fear, intense anxiety, or depression, discouragement, and so on, or let's say great anger, great agitation, worries, remorse. If those kind of states arise in an excessive manner, well, then be mindful of those. If not, if they continue, be sure to report them during an interview. Se sorgessero degli stati mentali molto forti, come una forte paura, una forte ansia, un forte scoraggiamento, una forte rabbia, cose molto potenti di questo genere, siamo molto attenti a osservarle, notarle, ed è una cosa che va riportata al colloquio. And you don't certainly want to dwell in those sadness states for too long. E sicuramente non vogliamo dimorare in questi stati troppo lungo. And keep in mind that even those states, if you're really mindful of them in a continuous manner, they will subside. E tenete a mente che se osservate in modo appropriato questi stati mentali, dopo un po' di tempo questi scompariranno. Voilà. So, in conclusion, try to practice with a relaxed state of mind, yet a mind that is alert, and keep the mind as balanced as possible. Quindi, per concludere, cercate di praticare in modo rilassato, ma con questa mente che rimane vigile e consapevole. And stay away from any form of extreme. E in modo bilanciato, in modo da stare lontano da delle forme troppo estreme, cioè dagli estremi. Yeah, and extremes, as mentioned, certainly in terms of not eating enough, or not drinking enough, or not sleeping, not getting enough fitness sleep, etc. Come ho detto prima, gli estremi tipo di smettere di mangiare, o di mangiare troppo, di dormire troppo poco o troppo, e così, e di bere l'acqua a sufficienza. And so, unnecessarily dwelling in unwholesome mental states for too long. E anche cerchiamo di non rimanere invischiati troppo lungo in stati mentali che non sono troppo benefici. Okay. So, to conclude, by taking this middle path, a balanced approach to the Vipassana practice, may all of you have a fruitful retreat, and may intuitive wisdom arise in leaps and bounds, and eventually realize the state of peace. Quindi vi auguro, per concludere, di intraprendere questa pratica in modo equilibrato, questa via di mezzo, per sviluppare la consapevolezza, la saggezza intuitiva che poi vi porterà, si spera, a uno stato di pace. And I forgot one point that I would like to add, namely, these days there are quite a number of meditation techniques, methods around, and if you're during this retreat, please just focus on the Mahasi style Vipassana meditation and not introduce something else from some other meditation method. This may have negative results. Un ultimo punto, ci sono tanti stili, tanti metodi di meditazione in giro, quindi io vi chiedo, per la durata di questo ritiro, di seguire solo il metodo Mahasi, perché se iniziate a introdurre delle pratiche e a mescolare tutto, poi i risultati non saranno... Yeah, okay, and that's it. Basta. Okay. Sadhu.